fatta di cemento, sotto questo sole spento, notte da combattimento, dove senza ossigeno si sta. Chi respira come fa e chi lo sa? Giungla di città. Città. E chi fuma già ce l'ha e lo sa. Buonasera a tutti e tutti, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Wombat. Siamo in diretta, sono le 19:08, qualche minuto di ritardo, ma niente in confronto ai problemi che abbiamo avuto mercoledì scorso. Ne approfitto subito per darvi modo di poter interagire con noi. Potete utilizzare il pad diretta Wombat, pad.riseup.net/p/diretta Wombat. Mi sto connettendo adesso, lo trovate sulla home del nostro blog posta Wombat, @insiberia.net. Avremo in connessione con noi telefonica, come abbiamo provato a fare mercoledì scorso, Dimitri Palagi, Cosimo dell'Occupazione di Via del Leone, Roberto della Rete Beni Comuni Emergenti, Grazia Galli di Associazione Progetto Firenze. Purtroppo non potrà essere con noi, abbiamo registrato qualcosa. Vi lascio ancora Adriano Celentano con Giungla di Città per poi partire tutti insieme e tutta insieme. A dopo. Giungla di città, dice Celentano, ed è proprio questo il tema di oggi, questa giungla che è venuta fuori in seguito a questo caos portato da un piccolo essere quasi invisibile. Intanto fra pochissimo sentiremo un piccolo contributo, lo farò sentire anche ai nostri ospiti, sperando che riescano a sentirlo, perché i potenti mezzi, come avete potuto capire, spesso sono fallaci. Vedo brutta per l'umanità. Buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io ho trovato il numero sul sito del Comune di Firenze e volevo avere delle informazioni riguardo se vi è un servizio di sostegno alimentare o di qualche tipo. Però allora il discorso è che ci sono stati buoni spesa a cui lei poteva accedere in modo autonomo da internet, ma sono scaduti il 17 aprile, davano dei voucher per fare la spesa. Poi i quartieri del comune di Firenze hanno dato i pacchi alimentari a chiunque ne avesse bisogno, sono terminati anche quelli. Adesso c'è il contributo affitto, come contributo che sta dando il governo, lei può fare quello? Okay. Purtroppo non c'è più niente, faccia il contributo affitto. Io, magari se lei è in difficoltà, questo in generale, non con l'emergenza sanitaria, c'è un ISEE basso, può fare il reddito di cittadinanza, sono comunque dei soldi che le arrivano. Radio Wombat, da sempre e obiettivamente la migliore. Ed eccoci pronti in regia con gli ospiti, abbiamo sentito. Buonasera intanto, buonasera Dimitri, buonasera Cosimo e buonasera Roberto. Ciao a tutte e tutti. Ciao. Queste cose... Buonasera. Buonasera, buonasera. Avete sentito un piccolo contributo, era una registrazione di una telefonata che io stesso ho fatto al segretariato sociale del Comune di Firenze per avere delle informazioni riguardo agli aiuti forniti dal Comune. La risposta è picche, fatti il reddito di cittadinanza. La domanda di quest'oggi è sicuramente: Firenze è entrata nella fase 2 da oramai qualche giorno, ma la situazione appare disastrosa, soprattutto sotto molti punti di vista, che oggi noi cercheremo di andare ad analizzare. La domanda è: da dove si riparte? Inizio con Dimitri Palagi, consigliere comunale. Buonasera. Buonasera. Ciao, grazie. Ciao, ti sentiamo un po' strano, ma proveremo comunque così. Allora, la fase 1, la prima fase, è stata un vero caos per l'amministrazione comunale, l'hai vissuta più da vicino, essendo nel consiglio, quindi quello che ti veniamo a chiedere intanto, se ci sono dei cambiamenti rispetto alla prima fase, quella dell'emergenza vera e propria, soprattutto in virtù del fatto che vi sono stati passati diversi comunicati da parte di Sinistra Progetto Comune un po' inquietanti, e la fuoriuscita del patto per la città in particolare, poi altre cose andremo a vedere in seguito. Intanto, se ci puoi aggiornare su quanto sta succedendo a livello dell'amministrazione. Sì, grazie, spero mi sentiate bene. La questione degli aiuti, del sostegno alle persone in condizioni di necessità, è un tema su cui abbiamo mosso una serie di critiche e soprattutto raccolto segnalazioni come la registrazione che abbiamo ascoltato. In teoria, ancora oggi, la Giunta nega che siano problemi di elargizione dei pacchi alimentari. Ci sono, come si ascoltava, tre tipi di sostegno che sono stati previsti. Uno era quello dei buoni spesa, il secondo era quello dei pacchi alimentari e poi c'è il contributo affitti. I primi due sono legati ai dei fondi che sono arrivati direttamente dal governo nazionale, mentre quello degli affitti in realtà si tratta di una sorta di anticipazione di un fondo che tutti gli anni viene dato verso la regione Toscana al Comune di Firenze, e quindi c'è stato un allargamento dei fondi disponibili e un'anticipazione per chi ha avuto una diminuzione di reddito a causa del Covid-19. Ci sono una serie di limiti che rimangono ancora oggi. Intanto la questione della residenza nel Comune di Firenze. Il Comune ha diversi problemi nel riconoscere la residenza, ha delle maglie molto strette. Chi non ha la residenza può accedere al massimo nemmeno al reddito di cittadinanza, veniva detto nella registrazione, ma al massimo ai pacchi alimentari. Pacchi alimentari che almeno per tre volte nel giro delle ultime settimane è circolata voce che fossero terminati e veniva data indicazione dai quartieri che appunto erano finiti. In realtà la Giunta ci dice che questi pacchi alimentari per i nuovi richiedenti sono disponibili se ci si rivolge direttamente non più ai quartieri ma alla Caritas, che adesso vengono veicolati in questo modo. C'è una gran confusione e soprattutto noi abbiamo notato anche nelle domande di accesso che c'è una sorta di criterio di ingresso, cioè se non ce la fai a fare domanda, tanto meglio, perché si dà per scontato che le risorse non possono essere sufficienti per tutti e per tutti, e quindi se c'è un criterio che in qualche modo diminuisce le domande, purtroppo viene accettato, immaginando probabilmente che poi il volontariato possa andare a coprire le situazioni di più forte emergenza. Noi su questo abbiamo anche fatto approvare una mozione che chiedeva un approccio diverso, soprattutto perché fino ad oggi i sostegni arrivano unicamente da fondi che vengono dati dal governo nazionale e dalla regione Toscana. Quindi il comune di Firenze non ci mette un euro, per dirla in maniera molto semplice. Noi abbiamo chiesto che questa cosa cambi. In maniera positiva, dobbiamo dire, è stata approvata una mozione che ha spaccato sia la maggioranza che le destre, e abbiamo una decina di giorni fa, circa 2 consigli comunali fa, fatto approvare questa mozione. Ora si tratta di metterla in pratica e che arrivino risorse direttamente. È chiaro che poi c'è un problema di comunicazione e soprattutto di accesso a questi sostegni che sicuramente non sono sufficienti, ma intanto partiamo con la possibilità di poterci accedere. Quindi questa sicuramente è una tematica molto problematica per quanto riguarda l'amministrazione, che si vanti di dire che non ci sono problemi, e anche riconoscere il fatto che invece ci sono tantissime persone in condizioni di necessità, è una necessità, è un obbligo per quanto ci riguarda. Direi, per non farla troppo lunga, concludo citando due elementi. La prima è l'approccio politico. All'interno della maggioranza noi abbiamo sentito la lista Nardella, che appunto governa la città insieme al Partito Democratico, parlare dei poveri, dicendo che i poveri devono essere aiutati dal terzo settore e non devono ricevere assistenzialismo dalle istituzioni. E quindi noi siamo rimasti abbastanza sconvolti da questo approccio, perché è chiaro che le condizioni che causano povertà e diseguaglianza devono essere combattute alla radice, e bisogna disinnescare questa diseguaglianza, mentre evidentemente per la lista Nardella va bene la carità, è quella la soluzione ai problemi che ci sono. L'altro elemento che noi abbiamo evidenziato è che bisogna agire anche sul fronte delle bollette, cioè a oggi, per disposizione del governo, se non si pagano le bollette entro i termini di scadenza non ci sono penali, però non c'è una sospensione o un alleggerimento di queste risorse, di queste bollette, quindi quelle cifre comunque andranno pagate. Quindi alle voci di aiuto abbiamo chiesto che venga istituito un fondo anche per contributo alle bollette. Sta dentro la mozione che è stata approvata. Questi giorni, queste settimane ci servono per fare in modo che non resti soltanto una mozione approvata dal Consiglio Comunale, ma ci sia un seguito diretto da parte della Giunta. Cosimo, sulla questione proprio del volontariato e degli aiuti che sono stati organizzati fin da subito da diverse realtà sociali dell'associazionismo o anche quasi tutte le occupazioni a Firenze, voi siete stati uno dei primi, inoltrarno, da anni svolgete un lavoro sul territorio, sul quartiere di un certo tipo. E quindi la domanda che faccio a te è che impressione avete di questo lavoro, che cosa sta andando a creare, se questa può essere una base di ripartenza anche per il mondo dei centri sociali e della militanza. Allora, intanto mi ringrazio ancora per dare sempre spazio a queste, insomma, queste discussioni. Quello che abbiamo visto è intanto una larghissima solidarietà che si è attivata in tutta la città, non solo in Sanferiano e comunque anche in Sanferiano, non solo da noi, ma tutta una serie di associazioni si sono attivate in solidarietà a chi aveva più bisogno, prima con l'aiuto alla spesa per gli anziani e poi noi Sì, Cosimo si è disconnesso evidentemente a qualche piccolo problema. Allora, intanto ne approfittiamo, salutiamo Roberto. Ciao, buonasera Roberto. Buonasera. Allora, reti comuni emergenti, reti bene comuni emergenti. Intanto un piccolo chiarimento, appunto stiamo parlando si parlava prima del volontariato, però fondamentalmente si parla della creazione di relazioni, quindi forse proprio sui beni comuni puoi anche un po' precisare, quando si parla di beni comuni parliamo di cose enormi, ma vanno a fondarsi precisamente sulle relazioni, giusto? Giusto, perlomeno un certo tipo di beni comuni, che è quello di cui mi occupo io e di cui un esempio lampante è la comunità di Mondeggi. La relazione è fondamentale e la relazione è fondamentale tesserla soprattutto in ambiente urbano, visto che è il tema della trasmissione. Volevo fare questo intervento pensando soprattutto alla mia esperienza personale. Devo dire che facendo parte di una comunità che si fonda sulla gestione di un bene comune, devo dire che questa pandemia ha diciamo, ha avuto un impatto particolare su questo tipo di realtà. Infatti, queste sono realtà che vivono sul contatto fisico, anche se vogliamo, delle persone. Quindi essere impossibilitati a muoversi, a incontrare i tuoi compagni di viaggio non è stata una cosa positiva. D'altro canto, queste realtà si sono aperte ancora di più verso l'esterno. Quello che stava raccontando Cosimo. La storia dei pacchi, di solidarietà, quello diceva Dimitri, anche a Mondeggi la comunità si è mossa per fare un'iniziativa del genere, trovando oltretutto nella popolazione un riscontro positivo, magari tra quelle persone che fino all'altro ieri tacciavano i presidianti di Mondeggi come degli antagonisti senza nessuna speranza. Quindi direi che dal punto di vista delle nostre comunità questo periodo è stata una prova molto interessante. Sentiamo tutti il bisogno di tornare ai rapporti personali veri e non online, però questo ha contribuito a avere un gancio ulteriore con le persone che non fanno parte diretta delle comunità. Finisco dicendo che queste comunità dovrebbero essere costituite anche dagli enti pubblici. Un bene comune, per essere tale, deve essere co-gestito dalla comunità e dall'ente proprietario. E visto anche il risultato della tua telefonata in comune, visto anche quello che dice Dimitri, probabilmente se i nostri amministratori si scommettessero o sperimentassero un tipo di gestione di questo tipo, potrebbero essere maggiormente partecipi e consapevoli di quello che le comunità desiderano e delle dinamiche che le animano. Ecco, su questo poi ci arriviamo con maggior precisione successivamente. Dimitri è promotore di un appello per la costruzione di una Firenze popolare, un appello che si può trovare sul sito dell'associazione Progetto Firenze. Ne sentiremo anche parlare di Grazia Galli. Ci vuoi anticipare qualcosa intanto, Dimitri? Sì, l'appello è molto chiaro, molto semplice e davvero vi invito ad andarlo a leggere e a sottoscriverlo, soprattutto perché è promosso da una serie di persone che hanno sempre sostenuto quell'idea che veniva detta di una comunità e di una partecipazione dal basso che fa vivere Firenze attraverso l'ascolto, la partecipazione e soprattutto vorrei dire anche l'elemento del conflitto, cioè che non nega il conflitto, ma anzi lo accetta, lo riconosce e pensa che attraverso il conflitto si possano esprimere anche elementi di necessità che arrivano dalla cittadinanza e che così possono essere ascoltate da chi governa. In particolare in questa situazione, valeva anche prima chiaramente, ma in questa situazione sotto pandemia, dopo la cosiddetta fase 1 del Covid-19, abbiamo letto e ascoltato le dichiarazioni in particolare del sindaco rispetto alla Firenze che ci sarebbe stata per il futuro, abbiamo notato già in questi giorni una sorta di slittamento dal fatto che non è possibile tornare ai livelli del turismo di prima a un approccio sui tavolini, che è la notizia della giornata di oggi, per le strade, che non si capisce bene chi ci dovrebbe andare a sedere rispetto alla residenza. No, perché il centro di Firenze sappiamo quanto è stato colpito da politiche sbagliate negli ultimi anni, e quindi l'impressione è che, siccome si ipotizza che dal 15 di giugno ci sarà una sorta di ritorno del turismo, si voglia fare una corsa a ritornare a quello che c'era prima, che evidentemente aveva una serie di numerose problematicità, e quindi questo appello va in una direzione diversa, soprattutto nella capacità di ascoltare, della partecipazione Poi se torneremo sui beni comuni, credo che anche lì ci sia una riflessione interessante da fare, però non voglio anticipare chiaramente. Sì, ci torneremo. Una cosa volevo chiederti ora, poi magari mando una canzone anche per un po' alleggerire ascoltatrici e ascoltatori, altrimenti si, si sconcentrano, si addormentano. È la questione del, come dicevi prima, del conflitto e di un ascolto della Firenze che viene dal basso. Voi avete addirittura lasciato come gruppo consiliare il cosiddetto patto per la città. Per quale motivo? Non è una questione, diciamo, soltanto formale, è che quello spazio lì, che noi non abbiamo mai identificato come effettivamente praticabile, avevamo dei seri dubbi, ci era sembrato dall'inizio un luogo dove si sposava la retorica dell'unità nazionale e soprattutto quindi del non riconoscimento del fatto che c'erano analisi diverse e posizioni diverse, il che non voleva dire che non potevamo ovviamente avanzare tutte e tutte delle proposte per la città, nel comune interesse di uscire il prima possibile anche dall'emergenza sociale e economica, e quindi abbiamo comunque tentato di fare delle proposte e alcune sono state approvate. Ci sembrava però che col passare del tempo quello spazio, quel patto per la città, fosse un modo per non riattivare o comunque per giustificare e rafforzare la non riattivazione dei consigli di quartiere e del consiglio comunale. Noi già siamo critici rispetto all'effettiva democrazia, all'effettiva partecipazione che viene espressa dalle istituzioni. Se però anche i regolamenti delle istituzioni vengono sospesi e sostituiti da questo appunto luogo dove la giunta ci concedeva del tempo per confrontarsi con i capigruppo, le capigruppo in consiglio comunale, diventava molto stretto, oltre al fatto che c'era questa sorta di fatto minaccia per cui se si alzava troppo la voce o le critiche si facevano troppo alte, si diventava anche poco ben accolti, poco ben visti nel tutto della città. Quindi noi abbiamo visto che si stava sviluppando una dinamica sbagliata che confermava tutti i nostri dubbi e le perplessità, e abbiamo deciso di chiedere con maggiore insistenza che vengano a riunirsi i consigli di quartiere e le commissioni consigliari, anche perché eravamo arrivati all'assurdo, perché le nostre posizioni erano viste con molta sofferenza e fastidio, mentre al contempo Fratelli d'Italia ha occupato Palazzo Vecchio, ma nessuno gli ha contato la scelta di farlo. Poi è stata un'occupazione meramente simbolica, di cui si è parlato anche poco, perché i consiglieri e i consiglieri comunali possono stare in Palazzo Vecchio. Quindi era veramente una provocazione polemica, però davvero abbiamo visto che si stava guardando soltanto alle elezioni regionali e non all'emergenza che riguardava la città. Per cui abbiamo deciso che non ne valeva più nemmeno il tempo che si dedicava a quello spazio, valeva le nostre energie, ci sono tantissime altre battaglie da portare avanti e quelle appunto sembravano più importanti. Bene, è rientrato anche Cosimo, io mando una canzone, poi torniamo con la questione del turismo e quello che ne verrà dopo queste grandi annate di orde di turisti, turismo di massa, l'overtourism cosiddetto. Intanto Viaggi e Miraggi, Francesco De Gregori, del 1996. Un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare, sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare, accompagnarti per certi angoli del presente, che fortunatamente diventeranno curve nella memoria. Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo, partiamo che il tempo è tutto da bere. E non guardiamo in faccia a nessuno e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere. E partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti già. E andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali. a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali. O a Milano con i suoi terrori settentrionali. Oppure a Modena con i suoi motori fenomenali. O a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Un miraggio c'è sempre un miraggio da desiderare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un letto da ricordare. Bella ragazza, ma chi l'ha detto che non si deve provare? Ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? Così partiamo, partiamo che il tempo potrebbe impazzire e questa pioggia da un momento all'altro potrebbe smettere di venir giù. E non avremmo più scuse allora per non uscire. Ma che bel sole, ma che bel giallo, ma che bel blu. Perciò pedala che il tempo potrebbe passare e questa pioggia paradossalmente potrebbe non finire mai. E noi con questo ombrelluccio bucato che ci potremmo inventare. Ma partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti ormai. E andiamo a Genova con i suoi spiriti musicali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi industriali, oppure a Napoli con i suoi martiri professionali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. E andiamo a Genova con i suoi sincoli musicali, a Firenze con i suoi turisti internazionali, oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. E torniamo in regia. Già Francesco De Gregori negli anni 90 aveva identificato in Firenze con i suoi turisti internazionali, proprio di questo andiamo a parlare. Con Cosimo siamo rientrati in regia. Cosimo è tornato tra noi, ciao, ci senti? Sì, vi sento, scusate, ho una connessione un po' ballerina in questo momento. Allora, stavamo affrontando la questione del volontariato, del mutuo aiuto, se così lo possiamo chiamare. Molti spazi sociali si sono attivati. Abbiamo visto che l'enorme importanza per la città di Firenze che si stanno svolgendo. La domanda era molto sulle relazioni che si stanno creando, se queste possono essere un punto di partenza, una base per poi con la costruzione di progetti più ampi sopra di questi, soprattutto al fine di risolvere uno dei principali problemi che vive Firenze, in particolare il suo centro, che è il fatto che non essendoci più turisti in centro praticamente non c'è più nessuno, e quindi si parla della questione abitativa, cioè proprio il diritto all'abitare all'interno della città. Allora, quindi un po' le impressioni che stanno venendo fuori da questo periodo, riprendiamo, prima si è rimasto a metà, e se queste possono essere delle buone basi per ripartire. Allora, non so esattamente fino a dove mi avete sentito, poi ho continuato ovviamente a fare il mio intervento da solo, però diciamo che appunto si è visto un'ottima attivazione, si è visto tantissima solidarietà da tutte le realtà del quartiere, da tutti gli spazi sociali di Firenze. Adesso appunto si tratta di riuscire a sfruttare queste relazioni per creare qualcosa di più, per risolvere questi problemi a un livello più profondo. E quindi sì, hai detto benissimo rispetto ai problemi che ci sono, la questione dell'enorme turistificazione del centro di Firenze, ma insomma c'è chi può parlarne meglio di me, che ha portato a una totale desertificazione, quindi a dei buchi proprio fisici nelle reti di relazione che poi si possono attivare in mutualismo, in solidarietà. E quindi la questione dell'abitare diventa centrale perché bisogna riuscire a riportare i residenti in centro. Riportare i residenti in centro per noi non vuol dire cioè, trovare dei lavoratori che stiano un anno o 2 anni, magari vengono per qualche hub, per startup, qualche incubatore di impresa. E poi se ne vanno portando un'enorme gentrificazione dei quartieri e in particolare del centro ancora di più. Ma invece riportare la residenza popolare, quindi ci vuole edilizia residenziale pubblica, ci vuole gli incentivi alle famiglie per fare contratti però duraturi, 4 più 4, ci vuole un investimento per la calmierazione degli affitti, per gli affitti concordati, e invece il comune ora sta proponendo alle famiglie di affittare con contratti di 6 mesi, un anno, e che poi lui si occuperà di eseguire lo sfratto e di spostare le famiglie in qualche struttura, che più spesso vuol dire dividere le famiglie e tenerle comunque pochi mesi. Questo cioè, è inaccettabile. Il comune per prima cosa dovrebbe ergersi a baluardo in difesa degli inquilini, di chi ha di meno, e sicuramente tutelare soprattutto anche tra i proprietari, anche i piccoli proprietari. Però no, non possiamo mettere il denaro, la rendita davanti alla vita delle persone. Stanno venendo fuori alcuni strumenti, ad esempio lo sciopero dell'affitto, che poi, detto così, sembra altro rispetto a quello che è. Di fatto si tratta di un'autoriduzione di massa. È un metodo che viene utilizzato a Firenze e sta funzionando, secondo te? È un metodo che è sposato, ecco, anche dai movimenti sociali? Cosa ci puoi dire? Ecco, ad ora ti posso dire no, nel senso a Firenze ovviamente, come da qualsiasi altra parte, chi non può pagare l'affitto spesso e fortunatamente aggiungerei dà la priorità a mettere un piatto in tavola piuttosto che pagare l'affitto. Quindi di fatto lo sta già scioperando. Ad ora non c'è stata un'attivazione organizzata particolarmente forte su questo tema a Firenze, però si sono attivati diversi sostegni per le persone, insomma, legati alla questione dell'abitare, e in particolare l'Unione Inquilini sta facendo un grande lavoro in questo periodo. Anche grazie appunto alla rete di contatti che grazie alla consegna dei pacchi abbiamo la possibilità di dare alle persone. E, diciamo che la questione interessante di questo sciopero di affitti, di cui stiamo un po' discutendo in tutti gli spazi, è la possibilità appunto di riuscire ad andare ad intercettare un'attivazione che già spontaneamente avviene, quindi riuscire a inserirsi nei percorsi e anziché cioè, abbandonare un po' l'ottica del sapere già noi qual è la strada giusta e dover insegnare agli altri, ma invece vedere grazie agli altri quali sono le necessità reali e organizzarsi insieme per rispondere. Bene, allora, su questo avrei anche la voce di Grazia Galli, proprio sull'abitare in centro. Io la manderei, ce l'ascoltiamo insieme e poi magari la commentiamo anche. Riguardo all'abitare il centro, ora tu lo intendevi un po' come anzi hai detto vivere il centro, però in verità la questione abitativa è realmente dirimente per quanto riguarda quella zona della città, perché l'abbiamo vista completamente svuotata da quello che erano le persone che lo transitavano, e quindi i turisti, ma e anche lo abitavano, seppur per una settimana, o due settimane, o tre settimane. Ecco, ritenete questa una questione centrale? Dobbiamo tornare ad abitare il centro? Dobbiamo ricreare un tessuto sociale, urbano, nella parte storica? Come? Certo. Questo è sicuramente una necessità, cioè una città non può avere un intero quartiere che diventa completamente disabitato, e questo durante il lockdown l'abbiamo visto, ma l'abbiamo visto anche in questi giorni della fase 2, cioè i fiorentini che ritornano in centro magari in bicicletta con i bambini che giocano in piazza Santa Croce, però è chiaramente un quartiere disabitato la sera. E qui mi riallaccio anche al discorso che facevamo prima: girare per le strade del centro vuote è impressionante, oltre che anche minaccioso, no? Come sensazione che uno prova. Quindi ben venga a rianimarlo, intanto di fiorentini che si spostano, però è certo che il problema di ripopolarlo di residenti si pone. Il modo però di ripopolarlo bisogna trovarlo, e certamente una delle chiavi è riportarci il lavoro, cioè riportare a risiedere in centro chi ci lavora, riportarci gli artigiani che sono stati spinti nelle zone marginali, portarci la manifattura di oggi, che non è una manifattura che inquina o che sporca, riportarci funzioni che gli diano vita, e poi riportarci i servizi, perché il centro è totalmente scollegato dal resto della città come mobilità pubblica e anche tra se stesso, e riportarci appunto tutti quei servizi che rendono piacevole l'abitare, perché la piacevolezza della bellezza architettonica, artistica, eccetera, ok, non può per tutti essere sufficiente a scegliere di abitare, di tornarci ad abitare, insomma, magari ti ci fai una giratina, ecco, però poi è incredibile quello che hai detto, perché senza servizi vai a abitare altrove, ecco. È incredibile perché alla fine nell'arco degli ultimi 30 anni è successo esattamente il contrario, quindi i servizi sono stati diminuiti, c'era già una resistenza viaria, i luoghi, gli artigiani erano in centro, e così come anche molti servizi pubblici, dal tribunale alle università, e quindi in un certo senso bisogna un po' rimangiarci tutto quello che è stato fatto nell'arco degli ultimi 30 anni. Sì, indubbiamente quello che è stato fatto ha avuto una grossa responsabilità nello spogliare di vita residenziale, di vita vissuta il centro. Forse ora più che tornare indietro, cioè sì, tornare indietro su questo tipo di scelte vedendone i limiti e cercare di ripararne gli errori. Però forse più che tornare indietro, nel senso, io non riporterei il tribunale indietro adesso facendo spese faraoniche, però riportare delle funzioni nel centro, anche funzioni nuove, anche funzioni di aggregazione per i giovani, per le famiglie, riportarci le scuole. Tutto ciò che ha bisogno di spazio, anche utilizzando quello che c'è, perché anche la proposta di ricominciare a utilizzare i musei come spazi didattici, no? Non è sbagliata, però appunto per abitare bisogna, e perché sia abitato, abitabile da tutti, c'è bisogno di lavorare sull'accessibilità, c'è bisogno di lavorare sulla mobilità e c'è bisogno di lavorare sui servizi, anche riportando in centro esercizi commerciali che non ci sono più. E grazie alla voce di Grazia Galli. A questo punto io farei una domanda in primis a Dimitri Palagi. Visto che è uscito un comunicato sul sito del Comune di Firenze il 18 maggio che riportava l'attenzione proprio sulla questione abitativa, sul diritto all'abitare. Voi avete proposto di una proroga degli sfratti almeno fino al 2021, un finanziamento di ulteriori bande degli affitti e, come diceva Grazia, per riutilizzare il patrimonio pubblico già esistente, quello di stilare un elenco del patrimonio immobiliare pubblico da destinarsi a ERP, quindi a case popolari, cosa che in verità non sembra che stia succedendo. È notizia di oggi, è un altro comunicato stampa, quello della 50 mini appartamenti in quella che erano le officine Galileo, la Meccanotessile, però anche lì si tratta non di ERP, bensì di affitti calmierati. Quindi come la risolviamo questa questione, Dimitri? Serve un cambio radicale di approccio e di politiche. Non basta riconoscere nemmeno solo il problema. Io non credo che se ne possa uscire senza un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica, che deve ovviamente agire sul recupero di quello che già c'è. Non bisogna consumare il suolo, ma bisogna riqualificare quello che c'è già di edificato. Noi abbiamo chiesto la proroga del blocco degli sfratti per morosità dell'esecuzione degli sfratti. Magari possiamo sbloccare proprio gli sfratti, in realtà è solo l'esecuzione, però è già qualcosa. Al momento è fino a settembre, noi abbiamo chiesto fino all'anno prossimo. Ovviamente è una campagna nazionale che noi abbiamo condiviso e portato sul nostro territorio, nel comune di Firenze. La consapevolezza poi di questo problema non si accompagna una volontà politica, invece esserci, di interloquire anche con il privato. Noi costantemente sentiamo dire in più occasioni che però quando si arriva al privato, diciamo, ci si deve fermare e si deve alzare le mani, non si può nemmeno confrontare e discutere, quando il problema degli affitti invece riguarda anche i privati. Quindi non si può nemmeno semplificare una dinamica inquilini, tantomeno piccoli proprietari. Poi c'è l'enorme problema dei grandi fondi immobiliari e delle grandi proprietà, quindi in realtà è di quello che bisognerebbe parlare, però ci sono anche piccoli proprietari che magari sarebbero interessati a un confronto, a entrare nel merito della discussione. Lo dice anche uno, fra l'altro, uno vive in affitto a Firenze anche per scelta, e quindi questo problema deve essere affrontato con una volontà politica diversa, nuova. Quindi quando si dice che bisogna prendere consapevolezza e non si potrà tornare al punto di partenza, bisogna anche accettare di modificare determinati limiti che si erano dati rispetto alla discussione politica, e poi bisogna anche accettare di avere le informazioni, cosa su cui si continua a essere lattanti da parte dell'amministrazione. Noi pochi mesi fa, prima chiaramente della pandemia e dell'emergenza Covid-19, avevamo chiesto semplicemente un censimento degli immobili sfitti o invenduti, quindi degli edifici che rimanevano vuoti, per sapere qual era la situazione. Ci è stato risposto, per quanto riguarda il pubblico, sono dati che ognuna e ognuno si può ricostruire da solo, anche se non sono, diciamo, di immediata fruibilità, quindi rende immediatamente fruibile il patrimonio pubblico sfitto e lasciato vuoto sarebbe già un primo passo. E soprattutto non abbiamo assistito a un dibattito improbabile tra centrodestra e centrosinistra sulla proprietà privata, per cui semplicemente informarsi sulla situazione in città, quindi avere le informazioni, per quanto ci riguarda è fondamentale per poi avanzare delle proposte di governo. Sembrava che noi volessimo proporre gli espropri proletari. Ora, senza entrare, diciamo, nell'argomento e dire cosa ne pensiamo e possiamo pensare degli espropri proletari, noi avevamo semplicemente chiesto di avere delle informazioni. Su questo non c'è la minima disponibilità da parte della Giunta, nemmeno oggi. Diventa davvero difficile dare credibilità a alcune dichiarazioni che vengono fatte. Noi ovviamente entreremo nel merito nel corso delle prossime settimane, vediamo anche come andrà la discussione della mozione che abbiamo presentato un paio di giorni fa, facevi riferimento al comunicato. Quella agisce su più piani, È chiaro che il blocco degli sfratti dipende principalmente dal governo nazionale, ma faccio un altro esempio. Il Comune di Firenze, noi abbiamo chiesto se è a conoscenza, ovviamente l'avevamo chiesto prima della pandemia, ma i tempi di risposta sono lunghissimi, se è a conoscenza degli sfratti che avvengono all'interno del nostro comune, in particolare dopo l'episodio che era successo in Via Baracca, non so se immagino ve lo ricordiate, Sì, certo. la risposta che ci è arrivata è che il comune ufficialmente dice di non sapere quali sfratti avvengono, o meglio, sa solo gli sfratti che riguardano gli immobili, gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica, quindi quelli direttamente del comune. Per il resto addirittura ci dice che in realtà lo sa, le comunicazioni gli devono arrivare, ma non c'è la volontà di entrare nel merito. Quindi, diciamo, la questione degli sfratti strettamente può competere all'ambito nazionale, anche se noi vorremmo una giunta, un sindaco, degli assessori che partecipano agli sfratti per impedirli. E quindi questo in realtà però ci rendiamo conto che legalmente attiene più a livello nazionale. I fondi devono essere distribuiti alla regione toscana, mentre il comune può facilitare l'accesso ai bandi, e poi però c'è l'elemento di conoscenza degli immobili sul comune di Firenze, di sapere quanti sono vuoti, questo lo può fare direttamente il comune. Quindi noi abbiamo presentato questa mozione che si divide sui tre livelli. Vediamo come verrà affrontata. Fino ad oggi, diciamo, abbiamo pochi elementi per essere ottimisti, però tu chiedevi che cosa occorre fare. Non direi nemmeno che per forza di cose le proposte avanzate dai movimenti, dalle associazioni degli inquilini e dalla sinistra di opposizione, sporca e cattiva, per forza siano giuste, però quantomeno che se ne discuta e ci dicano allora quali sono le loro soluzioni. Perché se la loro è solo retorica di dire bisogna riportare la residenza in centro, bisogna affrontare il problema abitativo, però non si può minimamente mettere in discussione la logica dei privati, non si può mettere in discussione questo sistema economico basato su diseguaglianza e speculazione, non si può nemmeno sapere quali sono gli immobili vuoti di proprietà pubblica, diventa difficile capire se c'è o no una soluzione. Sicuramente non c'è un interesse. Ecco Roberto, se ci senti. Ci sei Roberto? Sono, ci sono. Allora, ci troviamo anche in questa discussione, in queste parole dette proprio ora. Si parla molto spesso, diciamo, ci muoviamo tra ambito pubblico e ambito privato, mentre il lavoro che sta svolgendo la rete dei beni comuni emergenti va in una terza direzione, e quindi né pubblico né privato, bensì un'altra forma da dare a quegli edifici che attualmente dovrebbero essere amministrati, meramente amministrati dalle amministrazioni, invece che poi invece ne fanno quello che gli pare, l'uso più o meno improprio. Può essere secondo te quello dei beni comuni un grimaldello da utilizzare in questa fase per far sì che la popolazione, le relazioni si riappropriano di determinati spazi, di determinati luoghi, che siano essi palazzi o piazze? Intanto così, ora ne abbiamo parlato molto spesso anche su Radio Wombat, abbiamo avuto anche la tua voce, non so se vuoi fare un veloce riepilogo di quello che si intende per bene comune. Non so se questa qui è la sede per fare una cosa del genere. Comunque, ra molto rapidamente, un bene comune, perlomeno il bene comune di cui parliamo, è un bene che viene gestito direttamente da una comunità di persone, cittadini che hanno a cuore il destino di quel bene, e all'interno della gestione ci deve essere anche il contributo dell'ente proprietario. Quindi generalmente un ente pubblico. Le esperienze di beni comuni che sono anche nate nella nostra città, ben poche a dire la verità, hanno dimostrato e stanno dimostrando che comunque sotto la cenere appunto una voglia di solidarietà, di sociale, cova. Dico questo perché tutte le iniziative che sono state intraprese dagli spazi sociali, cittadini, sono lodevoli, importantissime, anzi fondamentali direi, però riguardano una fascia di popolazione che numericamente è visibile. In realtà, anche Scusami se vado, la prendo un po' larga, Silvio, però Certo, no, no, bisogna. volevo dire una cosa, cioè noi dobbiamo essere consapevoli delle persone che ci amministrano e che abbiamo davanti. Diceva giustamente Dimitri prima che davanti anche alla chiusura rispetto alle informazioni si lavora male. E di fatto questo non è altro che la conseguenza di un'amministrazione che, scusatemi le parole magari un po' vetuste, di un'amministrazione che ha scommesso fortemente sul capitale e basta. Quando un'amministrazione sceglie il turismo come modo di arricchimento della città stessa e di pochi che ne possono beneficiare, è ovvio che residenti non sono altro che un margine, una frangia che se quando va bene può mangiare nel piatto del turismo perché magari c'è un esercizio, un bar, un B&B o qualcosa che vive di turismo. Quando va male sono persone da estromettere da zone che potrebbero essere sfruttate meglio appunto dall'industria turistica. Questa attività è stata portata a punto tale che ora non è più che il turismo è la risorsa. Il turismo è una risorsa per Firenze. Purtroppo ora Firenze è diventata una risorsa per il turismo. E quando questa risorsa non è più accessibile per motivi adesso sanitari, è ovvio che il turismo non c'è, sparisce e la città cade in situazioni di deserto totale, come avete descritto prima. E ho detto tutto questo per quale motivo? Perché al momento gli amministratori non si sono minimamente posti in modo critico rispetto a questa situazione. Tutte le dichiarazioni, non solamente dei fiorentini, ma di tutta Italia, sono mirate alla restaurazione prima possibile dello stato precedente, quindi a riportare i turisti, a far girare l'economia nel modo come girava prima, senza considerare che probabilmente ci potrebbero essere soluzioni alternative, che potrebbero essere magari diverse, quindi più difficili, però potrebbero essere più soddisfacenti e meno impattanti sull'ambiente di tutti i tipi. In quest'ottica, ovviamente, anche prendere in considerazione gestioni condivise di beni, per quanto piccoli essi possono essere, è molto complicato. Quindi io credo a questo punto che la pandemia e il lockdown ha fatto spuntare scintille di solidarietà fondamentali. Tutti gli spazi sociali fiorentini e non solo si sono mossi. E spero che anche per necessità, per mancanza di reddito, spero che molti cittadini si stiano ponendo delle domande che prima non si ponevano. Quindi bisognerebbe trovare il modo, e io al momento non ho la risposta, di cercare di far fruttare questi elementi nuovi, e cercare di fare un fronte comune e avere una forza di impatto maggiore nei confronti di un'amministrazione che per ora si dimostra granitica verso una direzione che è sempre la solita. Cosimo, hai qualcosa da aggiungere prima che io mandi una canzone per smorzare un po'? Ma guarda, mi sembra questo ragionamento di Roberto veramente ottimo, l'idea che Firenze è diventata una risorsa per il turismo e non il contrario, mi sembra evidente. No, volevo ricollegarmi invece a quello che aveva detto Grazia, solo per dire che appunto si parla di servizi e tra poco ci sarà un corteo. Comunque una manifestazione, un flash mob, ancora è tutto poco chiaro in questa situazione. Però che partirà proprio dall'ASL di Santa Rosa, sarà il 30, con tutti i sindacati di base e diverse realtà territoriali. Parteciperemo anche noi appunto per ribadire l'importanza di quel presidio sanitario che è stato strappato dalle grinfie degli uffici della regione Bob 59, purtroppo vi devo lasciare. Un grande abbraccio. e che però deve appunto deve migliorare sempre di più, e proprio questa pandemia ha dimostrato quanto manchi una territorializzazione, una ramificazione capillare della sanità sui territori che possa avere una funzione preventiva prima che curativa. E niente. Allora, intanto Roberto ci lascia. Ciao Roberto, grazie per essere stato con noi. Forse ci ha già lasciato, sì, ci ha già lasciato. Benissimo, io mando una canzone, poi torniamo ancora sulla questione degli esercenti. Li abbiamo visti in piazza la settimana scorsa, i primi a tornare in piazza. Questo deve assolutamente far riflettere. Ne parliamo appunto dopo una canzone che dei The Freeds, I Hate the Tourist. Again is slowing down to let her in. With a gun I can't shoot my load, so I fucking run on off the road. Because I hate tourists, tourists suck. It's only their daughters I wanna fuck. There isn't a tourist that I don't hate, so get the hell out of my state. I hate tourists. Land and their babies are pissing in our sand. The only place where there are too many is in our local cemetery. I'll tell you now, I'll do what I can and get them all sent to Iran. Because I hate tourists, tourists suck. It's only their daughters I wanna fuck. There isn't a tourist that I don't hate, so get the hell out of my state. I hate. Abbiamo visto che già alcune categorie si sono mosse per richiedere, per rivendicare delle cose ben precise. È stato il caso degli esercenti di settimana scorsa, sono stati in piazza, ma riguardo a questo tutti quanti mi viene anche da pensare che le situazioni di crisi a volte creino delle ulteriori fratture, e questa è una cosa, ad esempio, che è successo a livello politico-amministrativo, dove il patto per Firenze sembra che sì, abbia ricevuto una larga adesione, ma che comunque abbia anche un po' sospeso i principi della democrazia. Questo anche visto nell'ottica di un comune che non sembra disposto a dare ascolto alla parola di tutti, e quindi nella questione pratica poi ci ritroviamo uno spazio pubblico ulteriormente aggredito da delle delibere che sembra che stiano cercando di realmente mettere a disposizione degli esercenti le piazze, le strade. Cosa ne pensate a riguardo? Beh, allora, come ti dicevo prima, io credo che in questo momento fare le barricate non sia opportuno per nessuno di noi. Certamente sono anch'io profondamente convinta che per affrontare momenti come questi gli spazi di democrazia devono essere aumentati, non ridotti, così come gli spazi d'ascolto reciproco devono esserci, e dobbiamo sforzarci tutti di crearli, sia ascoltando di più ma anche facendo delle proposte e non solo delle rivendicazioni. Quindi insomma è chiaro che poi ogni categoria rivendica e fa il suo mestiere e rivendica quello che sono le richieste massime per sé, però poi è per l'appunto nella mediazione che forse si trova anche la soluzione giusta. Ora, la delibera a cui tu facevi riferimento credo sia quella annunciata, che però ancora deve essere discussa in consiglio, riguardo l'assegnazione di maggiore spazio pubblico agli esercenti di ristoranti, bar, ma non solo a questi, anche artigiani, negozianti, eccetera. È vero che se la si vede sotto un certo punto di vista, questa può sembrare una concessione alle rivendicazioni di una determinata categoria. Bisognerà vedere esattamente come verrà fatta e quali saranno i termini, perché se proviamo a vederla forse in un'altra maniera, magari aggiungendoci delle richieste, mettendoci dei paletti o mettendo sul piatto anche le esigenze che con queste cose possono andare a contrasto, forse appunto guardando le cose diversamente possiamo accorgerci che non è tutto nero, perché anche noi come cittadini, perché poi ribadisco, gli esercenti sono il tuo barista, il ristoratore da cui fino all'altro ieri andavi, sono i genitori del tuo compagno di banco, sono residenti come noi e sono anche i datori di lavoro di tantissime altre persone qui a Firenze. Però appunto ci possono essere anche dei vantaggi per tutti noi, come dire, che possiamo essere gli utenti di questo allargamento, perché è indubbio che la città ha bisogno di ritrovarsi in una dimensione anche di vita sociale, ha bisogno anche di rincontrarsi, ha bisogno di uscire e passare una bella serata con gli amici, ritrovandosi a mangiare a un tavolo di ristorante, cosa che le condizioni attuali della circolazione del virus non rendono più possibile. Quindi forse aumentare gli spazi all'aperto può essere un vantaggio per tutti, non solo per gli esercenti. Magari a questo allargamento delle concessioni, che da quel che intendo sarà transitorio, sarà per 2 o 3 mesi al massimo. Il 30 settembre dovrebbe essere. Esatto, in un'estate in cui sono state annullate tutte le altre iniziative, magari associarci anche la possibilità di un tot di tavolini disponibili a sedersi senza obbligo di consumazione può essere uno strumento utile sia a contemperare le esigenze anche di chi non consuma, sia anche a favorire un ritorno a una dialogicità meno barricadera e meno su fronti contrapposti, ecco, perché sarebbe veramente sbagliato. È vero, è certamente vero che non tutti i ristoratori potranno farcela, perché è certamente vero che questa città fino all'altro ieri era sulla dimensione del turismo sfrenato e quindi aveva un esercito di esercizi di questo tipo, però non possiamo neanche pensare di abbandonarli a loro stessi e farli sparire. Cioè una gradualità che dia anche il tempo della riconversione, che ci sarà necessariamente una selezione naturale, e nei prossimi mesi sarà principalmente la cittadinanza a interagire con queste categorie. Quindi Non lo so, bisogna vedere come questa delibera verrà poi declinata nei dettagli, ecco, perché poi immaginare che per esempio attraverso questo i fiorentini ritornino anche a visitare il loro centro e con esso anche a viverlo, no? Un po' di più, a conoscerlo sotto un'altra dimensione, così come a vivere di più e a rivitalizzare certe periferie, perché da quello che ho visto questo provvedimento non è inteso solo per il centro storico, ma no, è inteso per tutta la città. Anzi prevede ampliamenti, cioè prevede spazi più ampi nei locali in periferia. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! E torniamo in regia, avete sentito Grazie Galli, ancora la sua voce, si parlava degli esercenti, si è parlato della delibera che è passata, è stata, anche su questo è stato diramato un comunicato dal Comune di Firenze, vi sarà il permesso di utilizzo di suolo pubblico a titolo gratuito per vari tipi di attività. Dimitri, è una cosa che può funzionare, ha senso? Chi si dovrà sedere a quei tavolini? Un dettaglio, questa delibera deve essere votata ancora dal Consiglio Comunale e discussa dal Consiglio Comunale, quindi teoricamente potrebbe essere modificata. Noi consiglieri e consigliere comunali lo abbiamo appreso attraverso il comunicato stampa che citavi, e quindi oggi la stampa locale ne ha dato notizia, e in realtà però se non lo vota il Consiglio Comunale, questa delibera diciamo che resta una bella dichiarazione di intenzione da parte del governo. È vero che il Partito Democratico, il centro-sinistra in città hanno un'ampia maggioranza e è difficile che venga modificata, però è il loro compito, cioè anche le consiglieri e i consiglieri comunali di maggioranza hanno il dovere, perché sono stati eletti per questo, di verificare gli atti, controllare, modificarli, vedere come va la discussione. E noi si parte male, nel senso che si parte con questo piano come se fosse già stato approvato. Noi verificheremo con degli ordini del giorno, delle proposte di modifica anche sulla base di alcuni contenuti che sono stati citati nell'intervista che abbiamo ascoltato prima, verificheremo in che direzione si vuole andare, cioè se questo è stato un cedere alle pressioni, alla voce che si è alzata, oppure se invece c'è un'idea di far rivivere gli spazi pubblici in maniera più aperta, per cui ci sono dei tavolini in cui ci si può sedere gratuitamente piuttosto che i dehors orribili a cui eravamo stati abituati negli ultimi anni. Quindi vedremo, propenderei per essere ovviamente negativo, ma siamo in un momento in cui non ci si può permettere, quindi entreremo nel merito, lo verificheremo nei prossimi giorni. Io immagino che la Giunta abbia molta fretta di farla approvare, per cui già lunedì prossimo io mi immagino che ne parleremo. Sulla base di come verranno accettate eventuali proposte e come risponderanno alle nostre domande, sapremo dare un giudizio definitivo. Certo è che segnalerei, perché è stato un po' citato prima, che in questa situazione di emergenza il diritto a riunirsi e il diritto a manifestare sono venuti per ultimi. Quindi gli esercenti e alcune categorie hanno alzato più la voce di altri settori, si è stati più tolleranti. Non credo che ci sarebbe stata la stessa tolleranza se altri settori della classe lavoratrice fossero scesi in piazza a manifestare. Comunque ci saranno degli appuntamenti per cui le piazze torneranno a essere attraversate da manifestazioni, da piattaforme che sono più familiari per noi, più condivisibili probabilmente, però davvero la sensazione che c'è politicamente ci sia stata questa maggiore ascolto a chi più ha alzato la voce, ovviamente sapendo che soltanto alcune categorie hanno permesso di alzare la voce in quel modo, altre vengono represse molto più rapidamente, puntualmente. Questo lo abbiamo visto, è storia anche recente, ma pare che viene da lontano. Quindi vediamo come andrà. Nel merito di questa proposta, vogliamo avere questa settimana un rapporto l'usorio, verificare se ci sono margini perché appunto ci sia un'idea diversa di città e quindi si rende possibile far vivere la città a chi la vive e non sperando che dal 15 di giugno torneranno i turisti e torneremo al punto di partenza. Poi volevo aggiungere una cosa sui beni comuni, ma la aggiungo quando c'è tempo, non voglio rubare spazio. Cosimo, che effetto ti ha fatto vedere gli esercenti in piazza, a fronte anche, come dicevi te, del primo corteo del mondo del lavoro, che sarà invece corteo o flash mob, quello che sarà, che avverrà il 30, quindi settimana prossima. Che effetto ti ha fatto vedere gli esercenti in piazza? Che effetto ti ha fatto vedere chi lavora per gli esercenti in piazza? Ma guarda, io devo dire che non è Firenze, non è l'unica città dove è successo questo e non è nemmeno l'unica città in cui sono state quantomeno paventate, se non già approvate misure di questo tipo. Roma, Torino, Milano, anche Bari ci sono state, sono stati presi provvedimenti analoghi. Io ti dico, secondo me, gli esercenti fanno bene a difendere i propri interessi perché alla fine il confronto di cui parla Grazia, secondo me, è giustissimo che avvenga in diversi modi, in diverse situazioni. Una di queste è anche la dialettica che può essere più o meno conflittuale tra le varie classi, le varie forze politiche in campo. Devo dire che mi dispiace un po', e io assolutamente non ho niente contro appunto gli esercenti, né contro le loro richieste, che in realtà sono anche sensate, in quanto appunto ci stiamo concentrando giustamente su questa cosa, ma altre cose vengono richieste, sono la cassa integrazione, per i dipendenti. Il punto è che queste sono le cose più importanti a cui pensare, perché si può concedere tutti i tavolini che si vuole e così denigrando lo spazio pubblico a semplice merce di scambio per placare gli animi e quindi rientra perfettamente nella politica italiana di campare sul debito. Il punto è che possiamo mettere quanti tavolini vogliamo, ma chi ci andrà in questi tavolini? Cioè, non ci saranno 20 milioni di turisti quest'anno a Firenze e i fiorentini che campavano di turismo avranno ancora meno soldi da spendere. Quindi in zone come per esempio il centro di Firenze, San Frediano, ci sono una quantità infinita di ristoranti e di bar, già molti con i Dehors. Negli ultimi 10 anni i Dehors, da 3.400 metri quadri di suolo pubblico, sono arrivati a occuparne, mi sembra, 14.000. Quindi poi si parla di voler fare parcheggi di qua, parcheggi di là. Ora non ci saranno clienti ai tavolini e non ci saranno nemmeno parcheggi per i residenti. Il punto è prima di tutto chiedere sovvenzioni per poter pagare gli stipendi, chiedere la regolarizzazione dei dipendenti, garantire che anche chi lavorava a nero abbia dei soldi per vivere. Quindi continuo a ribadire il concetto su questi criteri escludenti, che mi sembra giustissimo il discorso di Dimitri. Cioè, i soldi vanno dati alle persone, le persone hanno diritto a vivere e a vivere bene. Quindi in questo momento cosa conta se lavoravi a nero, se avevi un contratto regolare, di quanto si è ridotto la tua paga? Sicuramente bisogna differenziare, ma prima di tutto bisogna far sì che tutti possano mangiare e avere un tetto sulla testa. Quindi, secondo me, dobbiamo un po' scuoterci dal nostro torpore. E cominciare a rendersi punto di riferimento nelle nostre comunità per sempre più questioni e così riuscire poi a intercettare queste attivazioni. Ecco, Anche ma una categoria, chiudo, anche una categoria come i ristoratori va dal ristorante a conduzione familiare a McDonald's. È evidente che non c'è nessuna relazione tra queste. Noi dobbiamo riuscire a ricompattare, a riformare un'identità di classe, una coscienza di classe. Ecco, quindi qui un po' mi riattacco a quello che diceva Grazia, quindi la logica di Barry Kateri, no, o almeno non sempre, mettiamola così, sicuramente con la conduzione familiare ha poco senso, in altri casi magari lo ha di più. Avete pensato, qualcuno ha pensato a qualche modo per riuscire a creare una rete, ecco, dei rapporti anche con gli esercenti, probabilmente magari anche il sostegno alimentare che è stato fatto fino ad oggi va in quella direzione? Guarda, io se posso dirti, abbiamo lanciato questa iniziativa e abbiamo condivisa con tutti gli altri spazi che stanno facendo sostegno alimentare e in cui stiamo andando a diciamo creare, formalizzare una rete di esercizi solidali fiorentini che sono proprio quelli che stanno sostenendo in diverse forme i sostegni alimentari. Quindi questa è un po' l'ottica che vorremmo spingere, cioè il punto è creare comunità e ricominciare a dare valore alle cose giuste. E forse diciamo che puntare tutto sul denaro non è la cosa più importante. Creare reti, creare solidarietà, creare mutualismo e riuscire ad avere più spazi di autonomia, di autogestione all'interno dei nostri quartieri. Magari spiega meglio questa questione della rete, perché io ne ho sentito parlare, è veramente molto interessante. Se puoi, naturalmente, se è il momento giusto, invece magari è una cosa che ancora deve essere elaborata, possiamo parlarne più là. Guarda, no, sicuramente. Quello che stiamo facendo, stiamo distribuendo, intanto stiamo raccogliendo, formando una rete di esercizi dagli alimentari ai forni, ai ristoranti, che già si era formata durante l'emergenza e che ora stiamo da un lato rafforzando, da un lato ampliando, di appunto tutti quegli esercizi che vogliono in un qualche modo sostenere i vari sostegni, banchi alimentari nei quartieri. Quello che facciamo è semplicemente dare, diciamo, un'attestazione a questi esercenti con un foglio plastificato in cui viene spiegato cos'è il sostegno alimentare e come sta contribuendo quell'esercizio e un adesivo da mettere in vetrina. Quello che speriamo è che sempre più esercenti vogliano partecipare a reti di questo tipo e che questo possa anche diventare proficuo per loro dal momento che si crea una forma di pubblicità su valori però positivi anziché a quelli a cui siamo abituati. Mi sembra una cosa veramente intelligente e bellissima, fra l'altro. Se posso aggiungere Vai. cioè, l'ultima cosa, quello per cui abbiamo pensato possa essere anche buona questa iniziativa, come appunto che poi rientra tutto nel fare comunità e che può essere utile effettivamente per ricompattare una sorta di classe, mi spiego. Cioè, ricompattare una comunità attorno a determinati valori, che non sto a ripetere ulteriormente, e non attorno ad altri, come può essere per esempio un aspetto razziale o meglio ancora xenofobo a cui siamo abituati a Firenze. E quindi abbiamo visto che i mini market che vengono additati come colpevoli della movida, sbagliando, sono stati quelli più contenti di partecipare a questa iniziativa e ci hanno dato un sacco di roba, nonostante noi non ce l'aspettassimo, più che altro per le ristrettezze economiche che immaginavamo. Però appunto questo fa sì che andare ad accomunare il bottegone o lo sforno con il mini market e farli stare dalla stessa parte perché sostengono una comunità, perché sostengono un quartiere, perché si trovano ad affrontare in misure diverse gli stessi problemi, è secondo noi positivo e può servire a creare noi a identificarci noi con i gruppi sempre più larghi anziché farlo fare alla controparte, quindi far sì che creino loro le divisioni tra di noi. Dimitri, è una cosa che condividi? Pensi che abbia senso? Pensi che abbia senso anche magari proporlo in una discussione di una delibera, una cosa del genere? Che sia l'unica strada necessaria per poter uscire in una giusta direzione da questa emergenza, ma sarebbe stata una necessità anche senza Covid-19, assolutamente d'accordo. Io sono convinto che non è nelle istituzioni, attraverso gli emendamenti o gli ordini del giorno o degli atti, che si riesce a produrre un cambiamento, ma lo si fa nella società, costruendo rapporti di forza, sviluppando comunità e coscienza di classe, quindi capire quali sono i bisogni in comune e che la solidarietà quindi diventa un'arma per costruire dal basso questa dimensione. Tutto ciò che può essere necessario come atti e soprattutto per portare al dibattito pubblico queste posizioni, sicuramente noi siamo a disposizione, lo faremo, però nella consapevolezza appunto deve essere nella società che esce la rete di solidarietà, questa consapevolezza, in modo tale che a un certo punto diventa inevitabile riconoscere che c'è un altro modo di vivere la quotidianità, un altro modo di vivere la società, e che non è una parte politica, un gruppo consiliare che lo sta proponendo in contrapposizione alla giunta, ma che c'è una realtà effettiva. Diciamo, oggi siamo a ricordare l'anniversario dello Statuto dei Lavoratori, io ricordo sempre che quel punto lì in realtà dalle forze politiche che combattevano per la classe lavoratrice non fu votato favorevolmente, perché era semplicemente una presa d'atto di qualcosa che c'era già nella società e che si lottava per avere ancora di più. Questa secondo me è la direzione da intraprendere, la cosa importantissima e che veramente è un grande valore di queste esperienze di solidarietà che ci sono state, che sono in città, che c'è una consapevolezza che non ci si sostituisce alle istituzioni e alla politica, ma si danno risposte per le quali questo modello di società non è in grado di dare risposte, e quindi si denuncia quello che non funziona e si propone un altro modello. È l'esatto opposto di quello che in Consiglio Comunale, per intendersi, ha detto la lista Nardella, cioè non si sta a guardare i poveri facendo carità, ma si organizza chi è in difficoltà e si cerca di trovare soluzioni attraverso la solidarietà. Quindi ovviamente noi ci consideriamo uno strumento nelle istituzioni per questi percorsi e per sostenerli e soprattutto per dare voce in tutti gli spazi in cui è possibile farlo, per sostenerlo, e credo che non ci debbano essere illusioni sulle scorciatoie, ma deve essere un processo portato avanti sapendo che dall'altra parte chi ci governa comunque non crede davvero di poter cambiare la società, e diciamo per 2000 motivi diversi, ognuno ha il suo percorso politico e le sue idee, ma soprattutto perché non lo vede nella società. Saperlo organizzare, dargli visibilità, dargli forza attraverso la solidarietà e l'unità può effettivamente darci speranza. Io sono convinto che sia la strada da percorrere giorno dopo giorno e soprattutto guardando anche a lungo periodo. Bene, allora sono le 8:30 passate, io avrei un sacco di cose da domandare, però immagino anche che vogliate andare a cena, quindi se siete, insomma, se dovete andare ci si può salutare qui, altrimenti io un'altra domanda da fare ce l'avrei, ditemi voi. Io avrei un familiare da accudire più che da cenare, se è veloce posso rispondere e scappare, come volete. Va bene, velocissimo allora, colgo la palla al balzo, abbiamo parlato di un sacco di argomenti, l'ultimo che mi preme da affrontare è quello, insomma, anche qui è uscito un comunicato giusto ieri, si parla di grandi opere e di una richiesta di pieni poteri per le questioni dell'aeroporto e della TAV a Firenze. Vuoi dare un commento velocemente? Sì, assolutamente. C'è stata una strumentalizzazione di quello che è successo a Genova, che se uno va a leggere anche le interviste di Renzo Piano si dice che non c'è stata nessuna scorciatoia in termini di normative, ma semplicemente si è preso atto delle necessità di lavorare in una certa direzione con trasparenza e coordinamento delle varie enti, delle varie istituzioni che dovevano lavorare, e si è andati in quella direzione lì. Invocare i pieni poteri sul modello di Genova per parlare di aeroporto, stadio, completamento dell'alta velocità ci è sembrato anche di cattivo gusto. Non è tanto perché temiamo una torsione dittatoriale, quanto perché quando parliamo del nuovo progetto dell'aeroporto bisogna ricordare che quello che è stato sbagliato è la valutazione di impatto ambientale, è stata proprio sbagliata, non è che le norme sono cattive o qualcuno ha remato contro. C'è stato un errore rispetto a delle leggi che fra l'altro sono state scritte dalle stesse maggioranze che vogliono quella grande opera, quindi diciamo che è evidente non si possa attribuire alla burocrazia. Spesso quando si parla di investimenti in realtà si sta parlando di speculazione, quando si parla di grandi opere necessarie si parla di grandi opere inutili, e soprattutto è impressionante come nel giro di poche settimane sparisca dal dibattito pubblico la messa in sicurezza del territorio, la messa in sicurezza del già edificato. Quando succede un terremoto, c'è un'alluvione o comunque un disastro, diciamo, per qualche giorno si dice è la grande opera necessaria, è la messa in sicurezza del territorio, il recupero dell'esistente. Poi nei periodi ordinari l'unico modo per far ripartire l'economia che viene in mente a queste maggioranze sono di nuovo queste grandi opere che da tantissimi anni non vengono portate avanti, perché fra l'altro è anche il modo con cui le fanno, oltre al fatto che sono sbagliate, senza entrare nel merito di ogni opera, però è chiaro che vanno nella direzione sbagliata. La scelta poi di utilizzare l'espressione pieni poteri da quello stesso Partito Democratico, che quando la utilizzò il ministro della Lega aveva gridato allo scandalo, è significativa anche della credibilità di certe dichiarazioni. Senti, sui beni comuni avevi una cosa in serbo, dicevi prima? Sì, no, velocissimo, che è collegato a quel discorso della solidarietà e della costruzione dal basso. La sensazione è che da parte delle istituzioni, quando si parla di bene comune, ci sia una sorta di meccanismo di appalto, cioè io affido uno spazio a un gruppo di cittadine e cittadini, a della cittadinanza attiva, e mi aspetto che però non ci sia un lavoro politico lì dentro. Quindi il meccanismo dei beni comuni io credo sia fondamentale, però siccome è un termine che abbiamo sentito spesso dalla controparte, io credo che sia vissuto in un modo diverso. E quindi politicizzare i beni comuni, politicizzare i meccanismi di solidarietà, io credo sia fondamentale. Io fa le esperienze di cui abbiamo parlato oggi e di cui siamo più a diretta conoscenza, ovviamente già vanno in questa direzione, ma io credo che lo si debba dire, cioè il bene comune non è uno spazio della città appaltato a un gruppo di privati cittadini, ma è un modo diverso di vivere la città. Quindi in questo modo i beni comuni diventano una battaglia fondamentale. Volevo solo precisare questo. Bene, ti lasciamo allora, ti ringraziamo ancora per essere stato con noi. Grazie, scusate, grazie a voi. Assolutamente, ciao, buona serata. Cosimo, ci sei? Ciao. Ci sono, scusate, vi avevo perso. Sì, no, non vorrei riabusare neanche del tempo tuo, quindi se vuoi rimanere, vai tranquillo. Rimani, io mando un pezzo nel frattempo, va bene? Vai, vai, ci vediamo tra poco. Bene, sentiamo. Firenze, canzone triste di Ivan Graziani. Se lo sai, non è servita a cambiarla. La cosa che ho amato di più è stata l'aria. Lei ha disegnato, ha riempito cartelle di sogni, ma gli occhi di marmo del Colosso toscano guardano troppo lontano. Caro il mio Barbarossa, studente in filosofia, con il tuo italiano insicuro certe cose le sapevi dire. Oh, lo so, lo so, lo so, lo so bene, lo so. Una donna da amare in due, in comune fra te e me. Ma di tempo ce n'è in questa città, fottuti di malinconia e di lei. Per questo canto una canzone triste, triste, triste, triste, triste, triste, triste, triste, triste, triste come me.

Ci ho detto ben venga davvero una rete di esercizi solidali, almeno sapremo chi salvare, almeno sapremo chi sono i pochi che si distinguono. Cosimo, questo direi che invece è una, è una barricata alzata. Sì, infatti, se posso dire su questo discorso della barricata, che prima è rimasto fuori, cioè, per quanto io rispetto e penso siano positive, assolutamente ci debbano essere anche dalla nostra parte spinte come quelle di Grazia, ad esempio, quindi al confronto e così. Il punto, secondo me, non è un problema fare le barricate, il punto è riuscire ad avere abbastanza gente dalla tua ed avere chiaro da che parte vuoi andare. Sicuramente è inutile ora stare a, diciamo, né chiudersi nelle proprie comfort zone né andare a rincorrere chimere. Il punto è, come ho già detto, queste barricate, farle nel concreto sugli obiettivi sociali che vengono fuori dalle necessità delle persone. Quindi stare con le persone, stare, riuscire a rompere la barricata che c'è effettivamente tra noi e gli altri. Sì, fra l'altro, insomma, voi appunto nel quartiere dell'Oltrarno lavorate già da tanto tempo, avete addirittura avviato una progettazione urbanistica dal basso con il laboratorio di Laddarno, e avete anche, non so, questa è una domanda, avete anche pensato come ripartire, come reimpostarla, ne avete già parlato? Sì, guarda, in questo momento quello che stiamo facendo e un po', insomma, dovremmo essere arrivati già a un buon punto. Stiamo cercando di fare una mappatura di tutte le del quartiere, delle attività economiche, degli Airbnb, e a partire da giornata prima dell'emergenza, a partire da questo bisogna poi costruire la proposta del quartiere che vorremmo. Quindi già noi ovviamente abbiamo delle idee abbastanza chiare su determinate tematiche, avevamo cominciato a lavorare su Piazza Tasso e adesso avevamo presentato il progetto, insomma ne abbiamo parlato anche qua, adesso il comune ha cominciato a fare dei lavori in Piazza Tasso, vediamo cosa faranno, noi ovviamente controlliamo e diciamo che il punto è riuscire a essere presenti e attivi sul territorio in tante forme, e questo è ovviamente difficile, tanto più difficile nel momento in cui stiamo vivendo un'emergenza, una crisi, e ci sono tantissime persone che non hanno da mangiare. Quindi ora ovviamente noi siamo concentrati su altro, anche appunto come dicevo abbiamo, penso, non so se era nella parte tagliata, se poi l'avevo ridetto, abbiamo ottenuto la stanzina dopo due settimane di la stanzina dei bambini. Era nella parte tagliata, sicuramente. Okay. Sì, siamo riusciti a ottenere dopo due settimane di tampinamento e velate, più o meno velate, minacce di occupazione, siamo riusciti a ottenere dal comune di Firenze la gestione per fino alla fine dell'emergenza della stanzina dei bambini, che su cui avevamo avviato appunto con un'occupazione simbolica per l'Epifania e con una rete poi di tutte le realtà del quartiere, avevamo avviato un progetto di bene comune. Quello lì in questo momento è diciamo sospeso per evidenti motivi, però continuiamo a rimanere in contatto con le associazioni, ne stiamo parlando e a breve confido che presenteremo i documenti necessari a richiedere il patto di collaborazione per avere finalmente una gestione in toto della stanzina e veramente condivisa con tutte le realtà, perché appunto l'idea è di rendere uno spazio al quartiere. Queste un po' sono le iniziative su cui vogliamo puntare. Allora, prima di lasciarci, che sono ormai quasi le 9, due parole sul flash mob, sulla manifestazione del 30 maggio. Questo è nel quartiere di San Frediano, vero e proprio. Si parte, diciamo, da Santa Rosa, è un luogo simbolo, sia perché si tratta di un presidio ASL, e abbiamo visto il sistema sanitario al centro di questo uragano che abbiamo forse appena lasciato alle spalle. Quindi dovrebbe nascervi, fra l'altro, una casa della salute, però, come giustamente ricordavi, non era questo il progetto iniziale, vi è stata una forte attivazione. Se ci vuoi un po' ricordare a cosa ha portato questa attivazione popolare di tutto il quartiere di San Frediano. Scusami, è qualche piccolo problema tecnico. Il percorso dell'AS di Santa Rosa, diciamo, è stato un percorso abbastanza lungo e devo dire abbastanza faticoso per noi, perché è durato un po' più di un paio d'anni e ci siamo dovuti formare un po' da zero delle conoscenze anche nel campo, nel settore diciamo medico, sanitario. E la cosa che però invece c'ha, e quindi diciamo che è stato veramente una lotta lunga. Diciamo che è anche una delle lotte nel quartiere che forse hanno raggiunto risultati migliori, perché anche con il giardino dei Nidiaci, ad esempio, si è visto che comunque alla fine è stato c'è stata anche una grossa perdita dello spazio verde. Diciamo che dai e dai, anche noi. Noi, il quartiere, ovviamente, non solo noi, stiamo imparando sempre di più a lottare ed attivarci, e infatti sono stati fondamentali tutti gli anziani del quartiere che ci hanno dato tutto il supporto con cui siamo andati a volantinare, a fare i presidi e così, e ora finalmente sembra che debbano fare una casa della salute all'AS di Santa Rosa. Stiamo vigilando e ne riparleremo anche il 30 su effettivamente cosa vorranno fare lì dentro, perché si fa presto a parlare, e poi bisogna vedere quali servizi, con quale frequenza e con quale qualità nell'erogazione ci sono poi nella realtà. Quindi niente, ti direi questo e appunto invito tutti il 30 a partecipare, perché vuole essere una manifestazione, tanto un'occasione per ritornare in piazza tutti insieme. È una manifestazione estremamente partecipata, che abbraccia principalmente i temi del lavoro, ma che va a toccare anche tutti i temi legati ai servizi, come appunto è l'AS di Santa Rosa, che è il primo punto nelle rivendicazioni, la salute. Bene, sì, io mi accodo. Fra l'altro Radio Wombat sarà presente il 30 proprio in piazza, e non solo, nei giorni precedenti vi saranno le varie voci dei sindacati di base che hanno promosso l'iniziativa, che saranno passate nell'etere proprio da noi. Senti Cosimo, abbiamo fatto praticamente finito la puntata, quindi io ti lascerei e mando un pezzo, ma magari ci vediamo veramente il 30. Dai, grazie ancora a tutte e tutti e buona serata. No, grazie a te, a Dimitri, a Grazia, a Roberto, è stato veramente un contributo molto molto prezioso, spero che possa anche andare avanti, ecco, queste discussioni radiofoniche. Ancora grazie, ciao Cosimo. A presto. La tatuata bella al lavoro non ci va, ha messo la camicia ma al lavoro non ci va, quello che vuole altro, altro da questa vita, a consumar le dita per gli altri non ci sta. Padrone mostra il muso, vediamo come sei. Padrone mostra il muso, che lingua parlerai. da dove arriverai a cercar profitto? Sta certo che il mio tempo stavolta non l'avrai. Se lavori duro, un motivo ci sarà. E se lavori duro, un motivo ci sarà. Che schiavo del lavoro, che schiavo del lavoro, o solo del pensiero, che senza non si può. Ti dico che non vengo a lavorare, non vengo. Starò con la mia bella sul prato a far lavoro. Voglio girare il mondo, che il mondo è in testa, oh. Voglio girare il mondo, che il mondo è in testa, oh. E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna, e altro io non ho. E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna, e altro io non ho. Dai, dai, chiuda su, mi ci trovi, vabbè, sì, vabbè, dai, dai, chiuda su, vabbè, sì, dai, dai, chiuda su, mi ci trovi, sì, sì. Ho visto un re, se lo riscuse, ho visto un re, vabbè, sì, un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo. Povero re, e povero anche il cavallo. Sì, beh, vabbè, sì, beh, vabbè. E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello di 32 che lui... C'è l'ascoltatore del commento di prima che ha dubbi e pensa che sia stata presa con ironia. No, in verità avevo capito che era seria, l'ho presa come cosa seria. E in palese, anche condivisibile fra l'altro, perché insomma se la situazione a Firenze è quella che è anche colpa di questa situazione, in questa situazione ci si è gettato a capofitto, e quindi Cochi e Renato forse ci insegnano qualcosa. Che gli ha portato via una pazzia, oh poi Cristo, 32 che lui cena, povero me, suovo. E povero anche il sacrista. Sì, beh, vabbè, sì, beh, vabbè. Ah, non era un commento, una risposta a me, bensì a un altro commentatore. Allora, vi ricordo, ne colgo l'occasione, sempre il pad, lo trovate sulla home del sito postawombat@insiberia.net. Da lì potete interagire sia con me che con le altre persone che sono sul pad, quindi si possono realmente creare delle discussioni. Povero anche il pin. E fra l'altro ne approfitto, vi dico anche che siamo tornati nell'etere, la mitica frequenza 1359. Ci è mancata tantissimo, per l'appunto l'antenna ha avuto problemi proprio il giorno stesso in cui siamo stati tutti e tutte costrette nei nostri appartamenti più o meno grandi, e questo ci è dispiaciuto molto. Appena ci hanno dato il via libera siamo tornati ad aggiustarla, e quindi sulla 1359 potete ascoltarci. Questo in particolare nella zona di Firenze Nord, soprattutto in campagna, ci siamo ripromessi di migliorare notevolmente questo aspetto. Perché la radio si ascolta dalla radio, non dal computer. Il violino, la scatola di cacchi, la radio transistor, i dischi di Feltoni, la moglie. E per cos'è? Un figlio militare. Sì, gli hanno ammazzato anche il maiale. Poi il Purcell, nel senso del maiale. Sì, ma lui no, lui non piangeva. Ne approfitto anche per tirare un po' le somme di quello che sono stati questi due mesi per noi, almeno per Radio Wombat. Abbiamo avuto occasione di rivederci e è stato un grande piacere rivederci, rivedere le facce e non solo sentire le voci di tutte le persone che in queste settimane hanno contribuito per far sì che Radio Wombat ampliasse le sue capacità, e questo è successo in modo veramente, veramente notevole. Non solo a Radio Wombat, abbiamo avuto la possibilità anche di interagire con tutta un'altra serie di altre radio e questo ci ha riempito di gioia, si sta creando una vera e propria rete. E abbiamo avuto anche modo di riflettere sul fatto che, in questi due mesi, diciamo, abbiamo avuto modo di riflettere su quanto sia importante un'informazione che venga dal basso. Questo perché si esce di brocca a guardare i telegiornali, a leggere i giornali, e naturalmente chi deve fare quattrini ha un certo, diciamo, ha una certa impostazione di raccolta e di diffusione delle notizie. Direi, oserei, ma forse non oso troppo dire che questo è deleterio, è stato deleterio, ha riempito la testa delle persone di confusione, oltre che di notizie spesso discutibili o di discutibile importanza, rilevanza. Le priorità sono state altre rispetto a quelle che gran parte dei media ha tirato fuori sera dopo sera. Quindi questo probabilmente è perché il commercio smorza l'approccio critico, o almeno, diciamo, fa sì che l'approccio critico sia incentrato su alcuni temi che a nostro modo di vedere non sono importanti. Quindi ci siamo anche un po' gongolati nel capire che l'apporto che abbiamo dato a ascoltatrici e ascoltatori, ma si può dire a una comunità pur piccola, è stato importante, e in questo non possiamo scordarci che è stato anche merito di quella comunità, perché tanti sono stati i contributi che ci sono arrivati da parte di ascoltatori e ascoltatrici. È difficile a questo punto distinguere fra chi ascolta e chi trasmette, perché veramente tante trasmissioni sono state fatte da persone che magari ci avevano più tempo, hanno detto sai che, ma quasi quasi preparo qualcosa e glielo mando. Ecco, questo è importantissimo continuare a farlo, cercare di assorbirla questa capacità e riportarla nel quotidiano, e quindi utilizzare quell'approccio critico tutte le volte che si scende per strada. Abbiamo inoltre avuto la possibilità di sviluppare nuovi strumenti. Prima stavamo parlando del pad di Rise Up, ma possiamo parlare anche della messaggeria che ci permette di ricevere messaggi vocali. Anch'essa la trovate sulla home del blog wombat.noblogs.org, blog che fra l'altro vedrà delle modifiche, perché il palinsesto speciale che abbiamo avuto in queste settimane era, diciamo, dedicato al periodo di quarantena. La radio al tempo del colera l'avevamo chiamato, andrà avanti pressoché invariato, anzi si aggiungeranno, torneranno ad aggiungersi alcune trasmissioni che nel frattempo avevamo perso. È il caso di Sessioni Notturne, è il caso di Tonight Alive e Basement Record del mitico Dalai Dama, che non vediamo l'ora di ritrovare sul frequenze. Quindi questo per dire che non è andato tutto male nell'arco di questa pandemia. Quantomeno Radio Wombat ha avuto l'occasione realmente di sviluppare tantissime cose, da una rete di conoscenze a contatti, e fra l'altro probabilmente avrete ulteriori sorprese, perché a breve vi sarà anche un nuovo sito. Nel frattempo mi si è fermata la musica, vediamo se vi mando qualcos'altro. Ma sì, dai, è diventato un po' un classico, ma io ve lo risparmio lo stesso. Cosa farò di mare, l'ansia scende e risale, lingua asciutta e partita la tachicardia. E adesso cosa farò? Son certo che morirò in questa stanza di merda. A proposito di mass media, mi hanno paragonato a Floris, anzi mettendomi sopra a Floris. Tachicardia, è solo ipocondria, questa mia nostalgia, ma è solo ipocondria, questa malinconia. Quando la sorte che bussa le porte ho l'ansia vitale, la sento più forte, il cuore mi batte a tempo di morte, ho una patologia. Adesso cosa farò? Son certo che morirò in questa stanza di merda, non a casa mia. Braccio sinistro fa male, l'ansia scende e risale, lingua asciutta e partita la tachicardia. E adesso cosa farò? Di certo qui morirò in questo albergo di merda, non a casa mia. La fame d'aria che sale, l'ansia cresce e fa male, lingua asciutta e partita la tachicardia. Solo ipocondria, questa mia nostalgia, ma è solo ipocondria, questa malinconia. La mia malattia è il nome che porto. Aspetta, riparti, va. La mia malattia è la tosse che porto, dico sempre che l'ho presa ieri. Quante orecchie non reggono lo sporco, ho le rime piene di batteri. Guardo questo cielo, tu non torni, sei la mia malattia quando non mi chiami. Se ti dico che io muoio tra due giorni, forse ti vedrò un'oretta dopo domani. Siamo un gruppo di ragazzi strani, a volte ammalati, disinformati. E voi siete nati imparati, belli, perfetti, fermi, impalati. Bene, perfetto, scrivo del nulla, tranne di un mucchio di insicurezze che a me mi accarezzano sin dalla culla, in mezzo alle urla, Gic, Kunda. Datemi ancora un aiuto, sono il recunta di ansie che libero al volo. Addirittura meglio di Formigli, meglio della Berlinguer. Solo dice che quel purgatorio della 7 slash home. Però loro non utilizzano il 3310 per mandare la musica. È un pezzo fondamentale della regia, è fatto in modo quasi analogico. Questo gli manca, è per quello che non possono competere. Questa mia nostalgia è solo ipocondria. Questa mia nostalgia, ma è solo ipocondria, questa malinconia. Anche le foche bevono Radio Wombat. E mi ero scordato, Slick Chick ripartirà, anche il mitico Slick Chick di Bloody Mary, che tornerà anch'essa a sollazzarci. Il palinsesto sarà aggiornato a breve, ci stiamo lavorando e ci siamo piano piano. E, no, inoltre, a proposito di Formigli, Floris e via discorrendo, una cosa da sottolineare. Secondo me c'è il fatto, e che va a nostro favore, gongoliamoci un po' di tutti gli sforzi che abbiamo fatto. Abbiamo preso un sacco la mano, un sacco di consapevolezza nell'utilizzo di veramente tanti strumenti. Avete sentito quest'oggi, abbiamo fatto un collegamento telefonico con più persone e non sempre è andato bene, come vi siete accorti mercoledì scorso. Però fondamentalmente bisogna tener conto che quello che... Floris fa, viene deciso, studiato e messo su coralmente da almeno 10 persone, mentre quando ascoltate radio come la nostra, ma non solo, c'è sempre una persona che si diletta, smoccola nel fare tutto quello che c'è da fare, dalla redazione alla post-produzione, alla pubblicazione, via discorrendo, cercare contatti, trovare, quindi veramente veramente un gran lavoro. Ci siamo fatti anche un grande plauso fra di noi, perché siamo molto molto contenti e coltente. Ultimo suggerimento che vorrei dare, il tema è sempre un po' quello che abbiamo affrontato in questa puntata insieme agli ospiti, è un articolo di Filippo Celata a proposito di giornalisti famosi: come cambieranno le città degli affitti brevi e di Airbnb dopo la pandemia. È un articolo che è comparso giusto, vediamo se la trovo la data, un paio di giorni fa se non mi sbaglio, era il 18 sì, il 18 maggio, su chefare.com, e va a analizzare. Celata è una delle persone che si è interessato molto alla questione. Va a analizzare come in verità il modello Airbnb potrebbe non trovarsi assolutamente in crisi. Fa notare che Airbnb è nato proprio in un momento di crisi, certo non come questa, ma era il 2008 e quindi la bolla immobiliare e via discorrendo, è proprio in quell'occasione che è nata. Fra l'altro si tratta di un servizio di intermediazione e quindi non ha dei grossi costi di gestione, e per il meccanismo che utilizza è tranquillamente in grado di snobbare, di fregarsene di quegli host che sono andati in fortissima difficoltà per trovarne di altri. Di fatto questo è un po' rappresentato dalla prima azione che ha imposto Airbnb, e cioè la cancellazione gratuita delle prenotazioni fatte prima dell'avvento di questa emergenza, il che vuol dire fondamentalmente che tiene ben più a chi viaggia che non a chi ospita. Chi ospita può tranquillamente essere sostituito. Certo, magari non sarà comunque facile, perché alcuni segnali di cedimento l'ha dato, nel senso che magari doveva quotarsi in borsa e non si è quotato, ma il punto non è questo, il punto è il modello Airbnb, non la piattaforma Airbnb in sé. E si può anche immaginare che al crollare di un colosso avvenga immediatamente la sua sostituzione con un colosso altrettanto forte, probabilmente anche di più, ancora più pervasivo. E quindi non possiamo assolutamente abbassare la guardia, e dobbiamo rimanere ben allerta, monitorando e, quando possibile, come possibile, opponendosi a tutta questa questione. È un po' il punto centrale, quello che si diceva prima, no? Tornare a abitarci noi in quelle case che sono state destinate ai turisti, che chissà quando se ne torneranno a calcare i selciati delle nostre città. Mi fanno inoltre notare che, oltre a tutti i pregi che ho prima nominato, inoltre non prendiamo soldi statali, no, effettivamente no, e soprattutto non abbiamo pubblicità di merda, e questo sì che è un gran vanto. E quindi unitevi a noi, ascoltatori e ascoltatrici, noi siamo una radio autogestita, autocostruita e autofinanziata, siamo aperti e aperte a tutti e tutte, basta farlo presente, scriveteci alla mail postawombat@insiberia.net, abbiamo una pagina Facebook che non guardiamo praticamente mai, o se no il pad, o se no magari riuscite anche a raccattare i nostri numeri. e riuscite anche a telefonarci. Questo, tutto questo naturalmente non vale per l'amico di Cossino in ascolto, che anche a lui però un saluto lo facciamo. Ciao. Non sono andato via, forse... Ah no, eccoci, c'è anche la musica. Splinters. Allora, e approfitto di avere ancora un po' di tempo prima che inizi alle 22 le dita nella presa, andiamo a leggere un suggerimento che mi è stato mandato dalla pagina Adottare Soluzioni Punk per sopravvivere. E dice così, un post pubblicato 8 ore fa, e dice: oggi a Honolulu, 61 anni fa, nasceva Israel Kamakatsi-Kamitz-Kamatskwakole, un nome complicato, impronunciabile, che ai più dirà ben poco, ma che è indissolubilmente legato a una canzone famosissima in tutto il mondo. Somewhere over the rainbow. Purtroppo questo ragazzone ha avuto una vita breve e segnata da gravi patologie fisiche. Muore infatti a 38 anni per complicanze legate alle sue obesità. Tuttavia, con il suo ukulele, in questo breve lasso di tempo, è stato capace di diventare il simbolo delle Hawaii nel mondo, non solo per la sua musica, ma anche per il suo impegno attivo in favore dei diritti del suo popolo e come attivista del movimento per l'indipendenza. Alla sua morte, le bandiere vennero messe a mezz'asta, il corpo esposto pubblicamente e omaggiato da decine di migliaia di persone. Dopo il rito funebre, le ceneri vennero sparse nell'oceano. Momento visibile nel video ufficiale di Somewhere Over the Rainbow. Forse non tutti sanno che la versione originale è quella cantata da una superenderrima Judy Garland nel film Il Mago di Oz del 1939. Somewhere Over the Rainbow è una canzone divenuta patrimonio mondiale. Tutti più o meno l'abbiamo accennata, seppur minimamente, con tanto di espressione un po' tra il sognante e l'ebete. Tutti aspiriamo e ogni tanto ci rifugiamo in questo luogo fantastico lontano dai cazzi della vita che ci affliggono quotidianamente e dove possiamo stare in pace e in solitudine. Dunque, se vi girano per qualche motivo, se un post vi fa salire il nervoso, se siete rammaricati, se siete indignati perché qualcuno parla bene della trap, fate un bel respiro e intonate Summer Over the Rainbow. A questo punto voi vi aspettereste che io la mandi, ma purtroppo il mio 3310 non si connette a internet e quindi no, c'è solo quello che sta già sulla playlist dei brani preferiti. Andiamo a vedere che cosa ho, magari potete sceglierlo. Volendo posso mandarvi, andiamo a vedere. Brani preferiti, eccoli qua. Allora, stiamo ascoltando Neil Young, abbiamo Massimo Volume o Apocalypse con Cigarette After Sex. Scegliete voi, iscrivetemi sul pad, eh? pad.resap.net/p/direttawombat. Keep. Mi sono preferenze, allora vado io con... Facciamo Massimo Volume, dicono. Vai, perfetto con Massimo Volume. E allora io saluto tutti e tutte. Ci sentiamo sicuramente mercoledì prossimo, ma forse anche prima. Eccoci. Massimo Volume. La città morta. Buona serata a tutti e tutte. Consacrato a nostri idoli le montagne intorno, confidando nella loro protezione. Per tutto il viaggio. Corridoi male illuminati, cartelli parlano di gite al mare, foto di discoteche e di comitive che brindano a testimoniare l'ottimo servizio. tavolini che sembrano aspettare altra gente. È un altro momento. Ordinare le stesse cose che mangiamo da una settimana. Perché siamo stanchi di novità. Oggi siamo partiti. Nessuno ci ha chiesto dove saremmo andati. Perché qua giù nessuno immagina chi siamo.